La commedia o tragedia calabrese si arricchisce, come ormai saprete, di un altro capitolo, che è quello della rinuncia dell'ex rettore della Sapienza Gaudio, mentre si apre la discussione per quanto riguarda le altre regioni tra il governo, appunto, e gli enti locali sui famosi 21 parametri. Le regioni chiedono di ridurli, chiedono di avere un maggiore coinvolgimento. La discussione si chiude subito perché Speranza gli dice che i 21 parametri restano quelli. I riflettori si puntano però anche su Bruxelles, e questo forse è veramente l'elemento centrale, e sul fatto che il bilancio europeo è ancora bloccato da Polonia e Ungheria, che lamentano le condizionalità sull'erogazione dei fondi alla questione collegata alla questione dello Stato di diritto. Una partita che si dovrebbe discutere da domani in Consiglio europeo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti e 53 secondi di mercoledì 18 novembre e appunto è un nuovo atto di questa, è il giorno di un nuovo atto di questa straordinaria commedia calabrese, con personaggi che entrano ed escono, con nomine che arrivano e persone che le rifiutano. Chi sarà il commissario alla sanità della Calabria? Ma soprattutto chi elaborerà un piano pandemico che evidentemente ancora non c'è, quando sono 6 mesi che siamo in pandemia? A saperlo. (Ride) 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, WhatsApp, tutto quello che volete, come al solito. Se avete idee, tra l'altro, per la Calabria, datecele. Siamo qua, a questo punto le portiamo noi, ci facciamo noi portatori al governo delle vostre proposte. Pietro Laccorta in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione, anche Giorgio De Luca, Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita e Francesco Ciaraffo per questa puntata di 24 Mattino. Ma riniziamo, torniamo all'inizio di questa vicenda calabrese, perché ieri l'ex commissario alla sanità, l'ex generale dei Carabinieri Cotticelli, è tornato a intervenire, lo ha fatto in Commissione Affari Sociali, mi ricordo se alla Camera o al Senato, vabbè, in Parlamento, Un clima strano, dice Cotticelli. C'era un sistema, una atmosfera, una pressione ambientale tale per cui tu ti muovevi in un ambito strano. Quando andavi a toccare interessi, avvertivi una presenza ostile, ma impalpabile, tale da non costituire prove, elementi che io potessi poi riferire all'autorità giudiziaria. Era una solitudine che tu avvertivi, ma che non riuscivi ad estrinsecare in fatti, in persone, in personaggi, in situazioni meritevoli di denuncia penale, eccetera. Però poi la denuncia penale l'ha presentata l'ex generale Cotticelli, e infatti il procuratore Gratteri sta indagando. Cosa è successo ieri? Beh, ormai lo sapete, l'ex rettore della Sapienza Gaudio, che è arrivato come buon terzo in questa ipotesi di fare il commissario, ha detto: guardate, mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro e quindi io a fare il commissario non ci vengo. C'è chi ci mette la questione locale, no? Perché il rettore, l'ex rettore di Cosenza, la moglie anche di Cosenza, e dire Cosenza e Catanzaro è come dire Pisa e Livorno per chi non conosce la Calabria, e quindi ci mette questo elemento. La realtà è che probabilmente dopo l'indagine, dopo il fatto che è emersa l'indagine su di lui, ha deciso di rinunciare. Forse anche su pressione di 5 Stelle. Adesso non si sa chi sia, perché Gino Strada ha detto: bah sì, ho fatto un accordo, faremo dei Covid, daremo una mano alla protezione civile, però chissà. Sulla rinuncia di Gaudio si lamenta il presidente facente funzione della Calabria Spirlì e dice: sono anche un po' offeso perché ce l'ha con le nostre città. Anche il terzo commissario governativo si è dimesso. Una grande delusione, devo dire, e anche un grande dolore, perché la giustificazione offende doppiamente la nostra regione, perché sembra che le nostre città non siano gradite alla sua famiglia. Questo è veramente una grande delusione. Il ministro Speranza, ospite a Carta Bianca: rispettiamo il problema personale di Gaudio. Gaudio è stato per 6 anni il rettore della Sapienza, che è una delle più importanti università d'Europa e direi persino del mondo. Stamattina è emersa una questione di natura familiare che chiaramente non possiamo che rispettare, ma siamo impegnati immediatamente per trovare una soluzione adeguata e per valorizzare anche quel decreto legge che, lo ribadisco, vale persino più delle persone. Poi Speranza dice che è necessario individuare un nuovo commissario, parla il ministro Boccia della rinuncia di Gaudio e il sempre Spirlì dice a questo punto che Speranza deve dimettersi. Ed è un momento di particolare imbarazzo, devo dire, perché l'unica cosa che mi sento in questo momento di dire è che deve finire questo commissariamento della sanità calabrese da parte del governo, e soprattutto si può veramente dimettere il ministro Speranza. Così Spirlì. Non bastasse questo cinema incredibile, ci si mette anche l'ex procuratore Ingroia, che dopo tutte le sue, per così dire, disavventure politiche, lancia il sospetto: l'Andrangheta si è messa d'accordo con la Cina per scatenare la pandemia. C'è qualcosa di oscuro anche all'origine di questa pandemia. Allora, se 2 più 2 fa 4, con il ragionamento del cui prodes, allora ci si deve interrogare se fosse vero che questa pandemia non è stata casuale, ma è stata determinata, può darsi che qualche componente criminale all'origine di questo avvio abbia avuto un ruolo. Se fosse vero che tutto nasce dalla Cina, la 'Ndrangheta calabrese poi era la principale ormai multinazionale del crimine che abbiamo in Italia, in quanto multinazionale tiene relazioni con tutte le mafie del mondo ormai. Cara Francesca Sforza della Stampa, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ma che ci dobbiamo dire? Ma che ci dobbiamo dire? Ma che storia è questa? Che paese? Questa è 100% Italia, 120% Italia questa vicenda. Sì. No, non è vero, ci sono anche cose meravigliose in questo paese, lo sappiamo benissimo, però questa storia è pazzesca, questa storia calabrese. Che sì. Dici? È pazzesca, un po' tutti insalvabili, diciamo, volendo tirare il filo migliore di tutta questa vicenda. Allora, penso che si possa dire che va apprezzato un premier che comunque si prende le responsabilità di questo immenso pasticcio, perché sì, almeno non c'è stato lo scaricabarile, che in questi casi peggiora, diciamo, anche il clima. Invece c'è stata un'assunzione di responsabilità che mi sembra, certo, voglio dire, il quadro è quello che è, però che comunque fa il paio con l'appello importante che ieri ha dato il Quirinale. Allora forse ripartire da Sergio Mattarella ci aiuta a sentirci un po' meno in mezzo ai marosi, sì, delle polemiche, dei pasticci super italiani, perché Mattarella ha fatto un discorso molto serio, ha fatto un discorso che parlava davvero un pochino a tutti gli italiani. Io credo che sia quelli arrabbiati, sia quelli addolorati, sia quelli perplessi, sia quelli incattiviti legittimamente da questa situazione. Cioè ha detto un paio di cose importanti. Ha detto, la prima mi sembra importante, che il virus non ci divida, perché attenzione, questa della divisione è proprio importante, tra sani e malati, tra assistiti e non assistiti, tra giovani e anziani, e tra regioni e governo, e tra regioni e governo. Perché poi alla fine anche questo, intanto stanno arrivando i vostri messaggi, c'è chi propone Arcuri, che tanto sa fare tutto, però guardi, Arcuri è il regino, secondo me a Catanzaro non ci si trasferisce nemmeno lui. No, cioè, perché c'è questo odio nei confronti di Catanzaro da parte degli altri pezzi della Calabria, che non hanno mai accettato che diventasse il capoluogo di regione. Chi altro? Chi propone lo stesso Spirlì e chi propone una task force per scegliere il... Beh sì, ci mancava una task force, ci vuole una task force per scegliere il commissario della Calabria, esattamente quello che vogliamo. Allora, la tensione tra le regioni e il governo, lo dicevamo. Ieri il Toti, il presidente della regione Liguria, nella sua veste di vicepresidente della conferenza delle regioni, perché come sapete Stefano Bonaccini è malato di Covid, in questo momento il presidente della conferenza, ha parlato lungamente, è stato ospite ieri anche ad Effetto Notte. Tra le altre cose ha paragonato i 21 parametri un po' ai numeri all'otto. Ci piacerebbe conoscere il meccanismo decisionale e, se possibile, lo chiedo con grande cortesia, umiltà e in punta di piedi, partecipare a quelle decisioni, perché altrimenti... Su cosa pesa di più e cosa pesa di meno? Diventa la buca della posta o la lotteria di Capodanno, visto che ci avviciniamo il venerdì, secondo decisioni che vengono prese su una stanza, secondo una numerazione da 1 a 10 che tutti noi conosciamo perché sono i numeri arabi, vengono estratti dei numeri, ma non sappiamo su quale base vengono estratti. Così Toti, ma Speranza gli risponde, ospite a Carta Bianca ieri, il modello dei 21 indicatori, va bene, è quello, basta. Le polemiche tra regioni e governo durante un'epidemia sono incomprensibili, per cui se c'è la richiesta di una discussione io penso che sia giusto sempre sedersi, ragionare, ma 21 criteri significa avere una fotografia più affidabile e quindi ragioniamoci fino in fondo con serenità, ma oggi questo è il modello che abbiamo e dobbiamo rispettarlo, è un modello che ha prodotto dei risultati. Io non so da dove vi vengono queste Erdogan a Catanzaro, scrive un ascoltatore, vabbè ragazzi, addirittura il presidente turco che annette la Calabria scatenando una nuova guerra nel cuore dell'Europa, vabbè. Dicevamo appunto delle tensioni che ci sono tra regioni e governo, che mi paiono, cara Francesca, con buona pace del Presidente della Repubblica, mi paiono inevitabili in un paese che negli ultimi anni ha provato e sta tuttora provando a darsi un assetto federale. Del resto tensioni ci sono state anche tra Angela Merkel e i governatori delle regioni tedesche sul piano antipandemia, penso che sia inevitabile, certo. No? Ma proprio ieri la cancelliera ha rilasciato un'intervista sulla Süddeutsche Zeitung molto critica sulla gestione interna tedesca del virus, dicendo che c'è un sovraccarico del sistema sanitario che è molto grave, che alcune volte le cose vanno troppo lentamente, ce l'aveva con alcuni governatori, anche lì con alcuni ministri presidenti di alcuni lender, per cui ora noi guardiamo, giustamente ci piace la cancelliera a tutti per il suo modo di affrontare anche le spiegazioni e i confronti con la cittadinanza, però i problemi sono davvero gli stessi. Delle volte abbiamo una tendenza, come dire, a pensare che gli altri stiano meglio, quando non è così, semplicemente perché così ci piace l'idea. Abbiamo anche una tendenza un po' ad autodenigrarci, che poi magari è semplicemente per denigrare appunto la regione vicina o il vicino più prossimo, ma insomma questa è una situazione condivisa, ahimè, da tutti i paesi europei. Basta guardare i dibattiti anche degli altri paesi, in Francia e Spagna non stanno tanto meglio, adesso hanno superato, pare, il picco della seconda ondata, ma a prezzo di isolamenti piuttosto serrati. L'Austria ha fatto il lockdown totale, insomma, però certo questi teatrini sulle regioni, sì, così un po' imbarazzanti, quelli sì, sono solo da noi. Allora forse su quello bisognerebbe lavorare, sì, no? Sì, mi pare di sì. E il traffico. Mi segnalate Donald Trump che da gennaio si libera, e però ieri guardate che girava già il tweet falso ovviamente di Melania, che scriveva I don't want to move to Catanzaro. A Catanzaro non ci vuole andare nemmeno lei, scrive un ascoltatore calabrese. E su Nutri ora restano un Toni, Minigu e Petru Lorbu. E mi chiede Spezia, ma viristi mai Catanzaro? Amico mio, io ci ho vissuto a Catanzaro, quindi... Le regioni e la componente politica di questo scontro con il presidente De Luca, che come sapete domenica sera si è lasciato andare ad un attacco molto forte al governo, al ministro degli esteri Di Maio per come hanno gestito la situazione, con una posizione, devo dire la verità, un filino ondivaga, perché prima voleva la zona rossa, poi nel momento nel quale l'ha deciso il governo ha detto che non gli andava più bene. Il ministro Boccia. Tanto di tandem non ha mai parlato il governo. Il professor Gaudio, rettore della Sapienza, aveva messo d'accordo tutti. Questa mattina, per ragioni assolutamente private che non c'entrano nulla con le vicende politiche, ha ritenuto di non poter accettare l'incarico. Quindi la vicenda, per quanto ci riguarda, finisce lì. Ed era il passaggio sulla Calabria, naturalmente. Sentiamo Boccia invece su De Luca. Era fatto una comunicazione pubblica dicendo che chiudeva, poi avrà visto il quadro con la campagna gialla e ha ritenuto di poter andare avanti. Se avesse voluto chiudere, avrebbe potuto chiudere, esattamente come ha fatto Bolzano. Di Maio. E qui dobbiamo ricostruire che cosa è successo, perché qui fino a 15-20 giorni fa abbiamo visto il governatore De Luca che mostrava in televisione gli screening polmonari delle persone, metteva in guardia dalla gravità della situazione del Covid e aveva fatto anche, ricorderete, una diretta in cui annunciava la possibilità di un lockdown regionale. Dopodiché, inspiegabilmente, ha cambiato idea. E così la questione Covid. Però cara Francesca, c'è una questione della quale non troviamo dichiarazioni pubbliche oggi, eccetto qualcosina sparso sui giornali, che a me sembra veramente centrale e curiosamente dei nostri politici ne parlano veramente pochi. Ed è la questione del recovery fund e del blocco che sta avvenendo in Europa. Lo ricordiamo agli ascoltatori, cosa succede? Che Polonia e Ungheria contestano il fatto che si possano si possa basare la concessione di fondi europei, non solo quelli del recovery, ma fondi europei in genere, basandosi anche su come su alcune regole dello Stato di diritto, per esempio l'indipendenza della magistratura, per esempio il rispetto delle organizzazioni non governative e delle opposizioni, per esempio la gestione umana o disumana dei migranti. Ebbene, Polonia e Ungheria contestano tutto questo e in questa fase stanno bloccando il bilancio europeo, cosa che blocca anche il recovery, e questo è il problema sul quale forse sarebbe importante concentrarsi adesso, no? Sì, allora è interessante quello che sta avvenendo e va capito, hai ragione, perché fa parte, insomma, tocca i nostri interessi da vicino. Allora, innanzitutto è una mossa politica che probabilmente non, che era in parte anche attesa e che non cambierà alla fine l'esito finale, ma farà perdere tempo. E il tempo in questi casi è importante, diventa un fattore politico, perché ora la presidenza tedesca si deve occupare di ricucire tutta questa tela, di riportare Polonia e Ungheria diciamo nell'alveo dei ragionevoli. E che cosa, qual è il problema di fondo? Che si registra di nuovo una distanza sui valori, cioè non c'è l'idea che bisogna procedere insieme, e Polonia e Ungheria in qualche modo fanno valere il loro potere di veto perché intendono guadagnare su altro. È un po' in fondo una trattativa che è in atto sullo Stato di diritto, sulle loro, diciamo, carenze, no? Che sono state condannate dall'Europa. Sì. Allora, noi dobbiamo chiudere. Segnalo che su questo può darsi anche i cosiddetti paesi frugali facciano un po' leva politica per ritardare o per ammorbidire il recovery fund. Vedremo come andrà, ne parleremo più tardi col ministro Amendola. Grazie Francesca Sforza della Stampa. GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Ma se ti dicessi cambiamo vita, andiamo giù a vivere a Catanzaro. E poi che c'entra Catanzaro? Nel sud la vita costa meno. Ma noi stiamo tanto bene qui, nel sud. Figurati.